chiudiamo con la presentazione di Geopolitica dell'intelligenza artificiale di Alessandro Aresu, con noi Antonio Pavolini, che è già stato con noi in diverse occasioni. Vi dico chi è Alessandro Aresu: è consigliere scientifico della rivista Lime, scrive per Le Grand Continent e altre riviste. Ha lavorato per diverse istituzioni, tra cui la Presidenza del Consiglio, il Ministero degli Affari Esteri, l'Agenzia Spaziale Italiana. Tra i suoi libri più recenti, L'interesse nazionale, La bussola dell'Italia, Le potenze del capitalismo politico, Stati Uniti e Cina, I cancelli del cielo, Economia e politica della grande corsa allo spazio 1950-2050 con Raffaele Mauro, per Feltrinelli è apparso Il dominio del XXI secolo, Cina, Stati Uniti e la guerra invisibile sulla tecnologia e geopolitica dell'intelligenza artificiale. Spero di non aver dato notizie false, perché molto spesso quando cerchiamo queste schede capita che magari sono cose che non avete fatto, oppure non fate più parte di una certa struttura, quindi chiedo sempre se abbiamo dato notizie false al nostro pubblico. Antonio Pavolini, analista dell'industria dei media, è impegnato da diversi anni nell'esplorazione di nuovi trend e modelli di business nella transizione digitale, durante la quale ha collaborato con università ed enti di ricerca internazionale. Nel 2016 ha pubblicato per Lezioni, Oltre il rumore, perché non dobbiamo farci raccontare internet dai giornali e dalla TV. Abbiamo fatto un incontro questa mattina proprio. E poi ancora, sempre per le edizioni, nel 2020 ha pubblicato Unframing, come difendersi da chi può stabilire cosa è rilevante per noi. Nell'aprile del 2023 ha pubblicato per Franco Cesati, editore, Stiamo sprecando internet, la riscoperta possibile di uno spazio pubblico digitale. Insegna teoria e metodo dei mass media e sociologia dei media digitali presso la NABA Nuova Accademia delle Belle Arti di Roma. A te la parola. Allora, grazie Alessandro, grazie ancora per l'invito, naturalmente. Allora, aggiungo alla scheda soltanto un particolare: tra i libri che vedete esposti, oltre al libro che presentiamo oggi, Geopolitica dell'intelligenza artificiale, ci sono gli ultimi due Feltrinelli, ma c'è anche un libro uscito quest'anno, Alessandro, che è La Cina ha vinto, e vi invito a sfogliarlo perché insomma il filone è estremamente prolifico. Allora, io ho passato appunto gli ultimi giorni, le ultime settimane a leggere questo volume di 800 pagine, e oggi come oggi riuscire a scrivere un saggio di 800 pagine che è in grado di appassionarti dalla prima all'ultima pagina è veramente un'impresa titanica, direi monumentale. Tra l'altro, lasciatevi dire, Geopolitica dell'intelligenza artificiale è un libro denso, ogni pagina è densa di conoscenza, di rigore scientifico, di capacità anche divulgativa, ma soprattutto denso di storie di aziende, di governi e naturalmente dei protagonisti, delle persone che hanno costruito quello che oggi chiamiamo intelligenza artificiale negli anni. Sono storie che si intrecciano, una sorta di grande biografia collettiva, soprattutto la prima parte è raccontata un po' come un'epopea di persone che vengono dagli ambiti più diversi, che attraversano i vari filtri di selezione del mondo, diciamo anche la selezione naturale dei diversi blocchi di partenza, no? Perché naturalmente non tutti partono dalla stessa posizione, ma poi anche la selezione universitaria, accademica, scientifica, il sistema, la cultura da cui provengono, che cambia completamente le regole del gioco, e poi però alla fine si ritrovano in una sorta di grande ecosistema competitivo, dove a volte sono alleati, poi a volte si ritrovano magari contro la loro volontà, l'uno contro l'altro, perché lavorano in aziende magari che hanno interessi divergenti, subiscono le partnership e le separazioni dei mondi a cui appartengono. Insomma, è una vicenda appassionante anche dal punto di vista umano, che poi però piano piano sfuma su questioni più grandi, perché a un certo punto il libro inizia a prendere quella dimensione geopolitica che richiede poi tra l'altro anche una conoscenza della geopolitica che Alessandro Arezzo e pochissimi altri, credo, in Italia potevano dare a un libro come questo. Siamo in un momento, ne parlavamo anche prima con l'autore, in cui escono continuamente libri sull'intelligenza artificiale, è diventata una sorta di buzzword, escono anche degli instant book. Ecco, questo è il nemico di tutti gli instant book, io credo si possa dire, perché ha la profondità, il rigore necessario per avere un quadro, una fotografia, una istantanea di questo straordinario fenomeno che tocca e toccherà sempre più tutte le nostre vite in questo scorcio di millennio. Parlavamo di interdisciplinarietà, è interessante vedere come questi personaggi, che poi adesso vedremo in questa galleria che caratterizza soprattutto, ripeto, la prima parte del libro, provengono anche da ambiti diversi e le collaborazioni a volte, per esempio, uniscono scienza computazionale, linguistica, oppure ci sono degli incontri intergenerazionali, no? Tra giovani menti, geni, diciamo, che hanno un talento straordinario, che però a un certo punto trovano in scienziati consolidati dei mentori straordinari. Quindi a volte c'è anche un rapporto quasi padre-figlio o madre-figlia che aggiunge una dimensione emotiva ulteriore. Per questo appunto non è un saggio freddo, un saggio che ti stanca nella lettura, ecco, è un saggio lungo ma in realtà che non abbandoneresti mai, e purtroppo alla fine lo devi abbandonare perché a un certo punto, come tutti i saggi, finisce con una cascata di note che occupano quasi un terzo di tutto il libro, perché anche i dati, gli elementi di colore, gli elementi giornalistici, non solo gli elementi scientifici, hanno tutti un riscontro estremamente rigoroso, e quindi potete leggerlo in realtà a più livelli, potete leggerlo rapidamente come appunto si fa con le grandi epopee, le cacce al tesoro, le conquiste del West, oppure anche se non capite magari un passaggio tecnico, riuscite ad andare avanti e riuscite a seguire il filo, e se volete approfondire avete questa cascata di note alla fine che vi aiuta, come accade, come dovrebbe normalmente accadere per i saggi invece che sono tipicamente accademici, no? Quelli con la peer review, eccetera, eccetera, che però invece sono di solito piuttosto pesanti, e io sono uno dei colpevoli di questo peccato molto spesso. E quindi ad Alessandro io comincerei a entrare un po' nel merito di questo libro e chiedergli... è una galleria di change makers, di persone che hanno cambiato le regole del gioco, che passano, dicevamo, attraverso un sistema che poi alla fine è il sistema occidentale della selezione del mondo accademico, poi del mercato, del capitalismo. Ecco, io vorrei capire se secondo te alla fine ne possiamo trarre un quadro complessivo di un sistema che funziona in qualche modo, cioè di un sistema che riesce a portare avanti anche grandi progetti, oppure all'interno di questi snodi decisionali, dove poi questi personaggi arrivano a un certo punto, intervengono secondo te magari anche momenti opachi, momenti che non tutelano forse abbastanza la democrazia di cui facciamo parte. Allora, grazie mille per l'invito, anzitutto grazie al Festival Premio Lusso, sono contento di essere a Cagliari per questa occasione. Stiamo parlando di un libro che io ho iniziato a scrivere nel 2022, quindi dopo che ho iniziato questo progetto, dopo che avevo scritto il libro Il dominio del XXI secolo, che dove aveva molto spazio in particolare l'industria dei semiconduttori. Quindi una questione da capire è che l'intelligenza artificiale è sempre l'industria dei semiconduttori, perché niente di tutto ciò che noi facciamo nella vita digitale è soltanto, insomma, un programma che utilizziamo, scriviamo una cosa, navighiamo, simile. Esiste sempre una struttura industriale, quindi esistono sempre delle cose di fatto che sostanzialmente nascono in un certo periodo storico e anche in un certo luogo. Quindi avviene nel 1947 l'invenzione del transistor negli Stati Uniti presso un'istituzione di ricerca privata che si chiamava Bell Labs, e poi nel corso del tempo si sviluppa questa industria, quindi si sviluppa la vita digitale basata sulle prestazioni sempre più avanzate dell'elettronica avanzata, la microelettronica, e quindi abbiamo diversi mercati di questo processo, quelli che rendono possibile la corsa allo spazio negli anni 60, poi l'elettronica di consumo, quindi le calcolatrici e così via, e poi dei grandi cicli del digitale, il personal computer, internet, i social media, gli smartphone, che sono una parte molto importante, poi arriva l'intelligenza artificiale, che è un altro di questi cicli, quindi non è un mondo completamente diverso rispetto a questo. Quindi io ho adottato questa chiave di lettura e per questo poi, quando scorrete il libro nel cast, perché c'è l'elenco dei personaggi del libro, il protagonista si basa la scelta del protagonista su quest'idea, quindi che la parte dei semiconduttori e dell'infrastruttura di calcolo sarebbe diventato l'elemento determinante anche della filiera dell'intelligenza artificiale. Per questo il protagonista è il fondatore di un'azienda che si chiama Nvidia. Nvidia è diventata un'azienda più nota rispetto a quando ho iniziato a scrivere questo libro, anche perché è l'azienda al mondo che ha il maggiore valore finanziario. E l'intelligenza artificiale oggi funziona così, quindi esistono poi delle aziende, delle altre storie che vengono descritte nel libro, la storia di Google e di questa azienda che si chiama DeepMind, e poi la storia di OpenAI, che è l'azienda che ha reso famoso sostanzialmente l'espressione intelligenza artificiale. Ma queste aziende in fondo come funzionano? Per fare quello che fanno continuano a dare soldi ad Nvidia, sostanzialmente al sistema industriale che io descrivo all'interno di questo libro. Quindi è un'azienda che ha una storia, nasce 33 anni fa, prima fa delle cose e poi gli viene quest'idea di adattare quello che fa a un grande mercato che crede che si svilupperà, e quindi le macchine della nostra vita digitale, secondo la loro tesi, saranno in sostanza sostituite o complementate dalle altre macchine dove ci sono i loro oggetti, i loro componenti. E in sostanza questa tesi di mercato è stata realizzata, chiaramente è stata realizzata. E quello che poi cerco di descrivervi attraverso la complessità di questo sistema è che è una filiera industriale, quindi non c'è nemmeno diciamo un piccolo minuscolo contenuto elettronico con delle grandi prestazioni. Sì, diciamo c'è anche questo, però alla fine, siccome si tratta di dei giganteschi magazzini con dentro un sacco di computer, la cosa interessante è sapere come vengono fatte queste cose, e sono fatte da Nvidia, perché Nvidia ha costruito questa filiera di letteralmente centinaia, migliaia di aziende, che sono prevalentemente delle aziende taiwanesi, che collaborano perché si realizzi questa cosa. Quindi, da un lato, la filiera industriale dell'intelligenza artificiale è la storia della la realizzazione di questa tesi, e poi anche della realizzazione di quella che era una prospettiva scientifica che invece era stata enunciata tantissimo tempo prima, 70 anni fa, quando il termine intelligenza artificiale viene utilizzato per la prima volta. E quando viene utilizzato da dei professori americani per la prima volta, sta già ad identificare la capacità di sistemi, delle macchine, di trattare il testo in modo simile rispetto a degli esseri umani, di riconoscere delle immagini, di costruire dei complementi per delle attività robotiche. Quindi il punto di questa storia è quando comincia a funzionare tutto ciò. E nel nostro sistema capitalistico questo funziona perché c'è qualcuno che vede il mercato, sostanzialmente, c'è qualcuno che vede lo sviluppo potenziale di questo mercato. Anche per questo succedono in questa storia degli aspetti inintenzionali, come qualcuno che inventa qualcosa e poi questo uso di questa invenzione è fatta da qualcun altro. Il caso, per esempio, di Google e OpenAI è molto importante da questo punto di vista, perché ChatGPT potuto esistere, perché dei ricercatori di Google hanno inventato una cosa, hanno pubblicato un paper online che tutti hanno potuto scaricare, poi un'altra società, quindi dei loro concorrenti, che nel mentre, come vi racconto prima, fingevano di essere una società no profit, adesso insomma non più, hanno utilizzato questo progetto per dire: non è un progetto di ricerca che noi facciamo in un laboratorio e lo utilizziamo tra noi ricercatori, ma ci faremo un sito internet dove ci può andare chiunque. Quindi questa è una grande idea commerciale e sta un po' tra il confine tra quella che è l'attività di ricerca e poi delle attività propriamente dette di un sistema capitalistico, dove dentro... E nella storia del libro poi incontrerete tante delle aziende che noi oggi identifichiamo con la storia del mondo digitale, oltre a queste aziende a cui ho fatto riferimento, come per esempio Microsoft, come appunto Google e come le aziende sì. di Elon Musk. Colpisce il fatto, per esempio, che aziende che sembravano abbastanza ferme a un certo punto, come Microsoft, riescono a parlare un linguaggio completamente nuovo, a identificare nuove opportunità di mercato. Per esempio, a un certo punto Ballmer lascia, arriva Satya Nadella in Microsoft perché ha capito che c'è un'opportunità nei servizi cloud, ha capito quanto può essere fondamentale l'intelligenza artificiale e quindi vediamo un sistema che funziona anche nel risvegliare alcuni, diciamo, dinosauri, non dico dormienti, ma che attraversavano un momento di stallo. È molto interessante anche quello che hai detto sul fatto che comunque tutto poggia sui semiconduttori, perché questa è una delle prime, diciamo, red flag che smuovono anche i governi. Poche cose come l'AI negli ultimi anni ci fa vedere il mondo con occhi diversi, rompendo tanti pregiudizi, per esempio pregiudizi che abbiamo sulla Cina e sugli Stati Uniti, no? No, siamo sempre stati convinti che gli Stati Uniti sia la patria del libero mercato, mentre la Cina sia un luogo di controllo, di assoluto dominio di ogni attività produttiva. Ecco, quello che succede a un certo punto con il mercato dei superconduttori è che il governo americano si rende conto che anche semplicemente la produzione, no? Dove fisicamente vengono prodotti i superconduttori, può rappresentare un vantaggio strategico che prescinde dal successo di mercato e chi è che protesta contro questa rottura della regola del libero mercato? Addirittura il governo cinese. Quindi è interessante perché questo è il rovesciamento totale dei paradigmi. Nell'Ottocento la Compagnia delle Indie invadeva il mercato cinese con l'oppio e i cinesi protestavano contro il libero mercato. Più tardi la Philip Morris, che non riesce più a vendere sigarette nel mondo occidentale, le vende dopo l'ingresso della Cina nel WTO proprio ai cinesi, aumentano i casi di cancro naturalmente in Cina, da noi si riconverte il business della Philip Morris, no? Con Jacobs, Kraft, Suchard, quindi nel mondo alimentare. Quindi per anni la Cina è stata vittima del nostro libero mercato, oggi invece la Cina rivendica le regole del libero mercato contro il tentativo dei governi di mettere al centro questi elementi strategici, no? Quindi altro che Keynes, cioè adesso abbiamo un'economia americana che prova fortemente a controllare l'economia globale come se fosse un elemento strategico. Sì, allora, per capire questi punti, considerate che il nostro mondo è stato cambiato dall'impossibilità di Taiwan di produrre le Barbie. Ora vi spiego che cosa è stato. Negli anni 70 Taiwan aveva nella produzione di Barbie, delle bambole, delle Barbie, un mercato molto importante. E quindi i taiwanesi, nel momento in cui la Repubblica Popolare Cinese è stata riconosciuta per l'azione degli Stati Uniti con Nixon e Kissinger, il rappresentante maggiormente legittimo del popolo cinese, che questo è successo all'inizio degli anni 70, questo ha comportato che, anche se c'era ancora Mao Zedong al tempo, insomma, tutti avevano capito che a un certo punto la Cina sarebbe entrata in un sistema di mercato mondiale. Questo significa che in posti come Taiwan sarebbe stato difficile continuare a produrre tutte le Barbie, perché sarebbero andati in Cina e in altri paesi a fare le Barbie. Quindi i taiwanesi però hanno pensato una cosa molto intelligente. Hanno pensato: cos'altro possiamo produrre se non le Barbie? E la loro il loro progetto è stato concentrarsi sulla produzione delle cose a maggiore valore aggiunto, in particolare l'elettronica avanzata. Quindi questo processo poi ha portato che un signore che si chiama Morris Chang, che lavorava per l'industria americana, è stato chiamato dal governo, insomma, come lo vogliamo chiamare, dai rappresentanti di Taiwan, e gli hanno detto: fai tu, porta questo, il risultato che noi vorremmo avere, rendere Taiwan un luogo di alta tecnologia, però tu sei, noi siamo politici, tu sei la persona che conosce come funzionano le imprese, insomma fai tu. Questa persona ha realizzato un'idea imprenditoriale molto importante, che è stato separare la progettazione dalla produzione dei semiconduttori. Significa che ha costruito un'azienda la cui tesi era permettere a delle altre aziende che i loro prodotti, queste aziende li progettassero e basta, e poi fosse la sua azienda TSMC nelle sue fabbriche a realizzarli, quindi produrre per conto terzi. E questi terzi erano potenzialmente chiunque. Quindi era un modello molto con una grande forza nel momento in cui avrebbe raggiunto una certa capacità tecnologica e ingegneristica. E il fatto che tutte queste aziende che si occupavano di tecnologia ma poi dovevano produrre un oggetto fisico non lo dovessero più produrre ha reso possibile la nascita di tantissime aziende, o la conversione di delle aziende che già esistevano a questo modello solo di progettazione. Nvidia, AMD, Broadcom, la parte di Apple della divisione elettronica, tutti clienti di TSMC. E tra i clienti di questa azienda taiwanese ci sono stati pure i cinesi nel corso del tempo. In particolare una importante azienda cinese di telecomunicazioni, quando si è messa a fare gli smartphone, Huawei, è diventata cliente di TSMC. Perché l'idea di TSMC è: io sono a Taiwan, ma i miei clienti possono essere chiunque, compresi i cinesi naturalmente, con cui i taiwanesi commerciano lo stesso, anche se c'è, diciamo, questo piccolo problema a partire dal 1949 dei loro rapporti politici. Solo che sostanzialmente i profitti, ed è una storia che vi racconto nel libro anche per spiegare poi che cosa c'entra con la dinamica dell'intelligenza artificiale, i profitti che Huawei faceva attraverso la sua divisione degli smartphone erano ritenuti pericolosi per altre attività che avrebbe potuto fare questa azienda di collaborazione con l'esercito cinese, di forniture di telecomunicazioni a degli altri governi. Quindi quello che gli Stati Uniti hanno fatto è stato agire politicamente, non economicamente, attraverso delle sanzioni e tutto un particolare sistema di controlli per cercare di separare questo rapporto tra Huawei e TSMC, e ci sono riusciti. Quindi Huawei ha smesso di essere cliente di TSMC per queste complesse sanzioni degli Stati Uniti, che sono proprio degli interventi come quelli che tu richiamavi. Quindi a quel punto che cosa è successo? Insomma, nel corso del tempo i cinesi hanno sempre più avuto un incentivo a farsi in casa quello che prima faceva TSMC, cosa che è molto difficile. Perché tutto questo mondo dei semiconduttori è molto complicato, quindi quando un'azienda diventa leader, avvicinarsi a quello che fa è difficile, è difficile per tutti. Per esempio c'è una importante azienda americana, Intel, che a un certo punto ha perso il primato a favore di TSMC e ora non riesce più ad arrivarci, tant'è che il governo americano, siccome questa azienda, anche se privata, è americana, adesso ha investito nell'azienda, quindi il governo americano ora c'è una partecipazione pubblica dentro l'azienda, quindi ha fatto delle cose che insomma non vedevamo da parecchio altro tempo. E Huawei in questa sua conversione si è messa a fare anche i chip per l'intelligenza artificiale, i servizi dell'intelligenza artificiale del mercato cinese. Quindi queste dinamiche di intervento della politica nell'economia poi determinano anche una situazione nuova di rapporti di forza. Però volevo aggiungere che dentro queste, finora abbiamo parlato tanto di tecnologie, di infrastrutture, ma poi una cosa interessante da capire è che a realizzare queste cose sono sempre delle persone, sono dei ricercatori, degli scienziati di varie discipline, degli ingegneri e degli imprenditori. Quindi una cosa che ha caratterizzato una storia di lunghissimo corso, io credo, della forza tecnologica degli Stati Uniti, che probabilmente in tanti l'avete visto, ma potremmo dire che comincia con quello che vediamo nel film Oppenheimer. Cosa succede in quel film che ha vinto il premio Oscar di Christopher Nolan? Che a parte Oppenheimer, che era americano, poi c'è tutta la gente che è andata negli Stati Uniti, ma era nata altrove. Stavano in degli altri posti, Albert Einstein, Leo Szilard, quelli che scrivono la lettera, Enrico Fermi, John von Neumann, il grande matematico ungherese, Eduard Teller, il nemico di Oppenheimer, pure lui era ungherese. Alla fine, perché queste persone sono andate negli Stati Uniti? Perché c'erano il nazismo e il fascismo che rendevano impossibile per tante persone come loro di poter operare liberamente e di poter stare in un sistema del genere. Ma negli Stati Uniti hanno trovato anche un grande ecosistema della conoscenza. Quindi hanno trovato delle università che si sviluppavano, hanno trovato il governo che investiva e metteva un sacco di soldi nei programmi scientifici, e tutto questo ha continuato ad esistere nei decenni successivi, ma non c'erano più solo Einstein o i grandi fisici europei, hanno cominciato ad esserci milioni di persone che venivano da tutto il mondo, sia dall'Europa, perché hanno continuato ad andare le persone dall'Europa agli Stati Uniti. Noi, per esempio, nel libro viene anche ricordato che nella storia dell'intelligenza artificiale c'è stato il contributo recente di grandi ricercatori nati in Italia. Quindi persone che sono nate a Genova, a Padova, insomma a un certo punto non venivano pagate adeguatamente, non potevano fare il loro mestiere nel modo che loro ritenevano più interessante, sono andati a Caltech, a MIT, a delle importanti università degli Stati Uniti. Ma poi oltre a queste persone sono arrivate i milioni di persone, che sono quelle provenienti dall'Asia, sostanzialmente. Sono provenienti quindi da Taiwan, dalla Repubblica Popolare Cinese, da Corea del Sud, dal Vietnam e dall'India in modo crescente. Queste persone sono ormai diventate la valanga che hanno alimentato la capacità tecnologica degli Stati Uniti. Se, per esempio, uno dei manager che è stato citato prima, Satya Nadella, l'amministratore delegato di Microsoft e il responsabile del suo rilancio, di recente ha fatto un'intervista sull'intelligenza artificiale, tra le più importanti che si sono ottenute negli Stati Uniti, dove c'è Satya Nadella intervistato da Dinan Patel e da Dwarkesh Patel. Quindi ci sono tre persone nate in India, sostanzialmente, Nadella e questi due Patel, che sono due ragazzi che hanno un po' meno di 30 anni, e uno è il più importante podcaster sull'intelligenza artificiale degli Stati Uniti e l'altro è la persona che ha fondato la più importante società di consulenza sui semiconduttori. Capite? Sono tutti e tre indiani, ma il punto è che gli Stati Uniti sono stati in grado di attrarre queste persone, che quindi hanno costituito questa dinamica del talento che ha poi alimentato queste imprese. Ma la ruota del mondo non smette mai di girare, perché poi i paesi che diciamo formano milioni di persone, a un certo punto, anche per le loro dimensioni, soprattutto demografiche, ed è il caso della Repubblica Popolare Cinese oggi e dell'India oggi e domani ancora di più, insomma, questi ricercatori e questi imprenditori, queste intelligenze se le vogliono ottenere da ultimo, oppure vogliono che vadano a fare esperienza e che creino delle aziende lì. Quindi cominciamo a vedere anche sempre più questa dinamica, ed è questo che a mio avviso rende abbastanza di interesse questo processo. Allora, la domanda che volevo farti sul contributo italiano in qualche modo hai già risposto, anche se mi piace anche ricordare il ruolo di mecenati, di visionari come Angelo Delle Molle, per esempio, la cui vicenda è raccontata nel libro. Ci sono anche elementi davvero imprevisti e imprevedibili, perché insomma Delle Molle nasce come imprenditore del CINAR, del VOV, poi del CINAR. A un certo punto fonda dei grandi istituti di ricerca dove studiano i protagonisti internazionali di questa storia. Quindi noi non siamo solo quelli che portano cervelli all'estero, a volte siamo anche quelli capaci di creare ecosistemi formativi in un paese comunque che ha una sua tradizione importantissima nella ricerca, e questo poi gioca un contributo importante. Però mi avevi dato un altro spunto che trovo molto molto istruttivo. C'è un passaggio del libro che racconta proprio la vicenda di OpenAI, di come era nata. Apparentemente hanno fatto finta, hai detto, di essere un'azienda no profit all'inizio. Avevano lanciato una carta molto ambiziosa sotto il profilo etico, con frasi, diciamo così, abbastanza generiche, tipo, no, la carta di OpenAI, quella del 2018, impegnava tutti quelli che lavoravano per l'azienda a assicurarsi che l'intelligenza artificiale sarebbe andata comunque a beneficio di tutta l'umanità. E c'era poi anche stata la scelta di adottare la logica open source rispetto alla logica di un codice proprietario opaco, con l'idea fin dall'inizio, no, di immaginare i danni, quindi nel lungo termine, quindi i rischi a lungo termine, tutti i temi. Adesso ci avviciniamo anche ai temi relativi alle questioni etiche, al rischio. Ecco, quello che succede abbastanza puntualmente è che a un certo punto impazzisce la maionese di OpenAI, lo racconti molto bene nel libro. C'è una sorta di terremoto societario da cui si capisce, come lezione finale, che in un'azienda con ambizioni globali non è possibile collocare fuori dal capitale le strutture della governance e i consigli di amministrazione. Cioè, se vuoi essere etico, non lo puoi risolvere con un artificio societario, con un artificio organizzativo. La questione del rapporto tra capitalismo, libertà e etica nella ricerca scientifica è assolutamente centrale nel libro. Come se non è un artificio societario, che cosa può, diciamo così, trovare un nuovo equilibrio tra l'esigenza semplicemente di staccare la cedola più alta quando arriva la semestrale di cassa e la necessità di una democrazia, di una società democratica, di tenere anche all'impatto, no, di tutti questi sistemi? Allora, io descrivo tante di queste aziende, le aziende tecnologiche, l'ho descritta in tanti libri, e utilizzo sempre questa chiave di lettura. Lo scopo delle aziende è fare profitti. Quindi voi non credete mai a un'azienda che vi dice il mio scopo non è fare profitti. Non è il suo scopo. Diverso, insomma, per esempio, se una cooperativa ha delle regole un po' diverse, quindi nella sua natura c'è qualcosa di un po' diverso. Però questo è lo scopo delle aziende, no? Per me è la frase, diciamo così, irriverente di Milton Friedman, che amava anche il mio maestro Guido Rossi, anche se non aveva niente a che fare con la visione ideologica di Milton Friedman. La responsabilità sociale di un'azienda è creare profitti. Sostanzialmente è vera, perché è il modo non ipocrita di descrivere delle aziende. Quindi quando delle aziende si descrivono diversamente, io sono sempre scettico. Quindi parto da questa posizione di scetticismo. La storia di OpenAI poi aveva una caratteristica specifica. Allora, l'azienda voleva conquistare dei mercati, perché poi per fare profitti tu devi conquistare dei mercati, e aveva bisogno di talento. Come vi dicevo prima, le persone sono quello che anima queste cose, quindi doveva convincere un'azienda appena nata dei ricercatori a lavorare per lei. Quindi inventa questo dispositivo per umanità, eccetera, perché deve convincere dei ricercatori che stanno servendo uno scopo più alto. Quindi era employer branding. Normalmente quello che caratterizza, no, la vita universitaria anche, però, cioè, realisticamente non funziona più così questo, perché anche le università degli Stati Uniti non hanno più alcuna possibilità di competere dal punto di vista salariale con le grandi aziende. Quindi si è già creato in questo secolo, quando sono arrivati Google e compagnia, cioè fare il ricercatore per Google guadagni 10 volte rispetto a fare il ricercatore per un dipartimento universitario degli Stati Uniti. E poi, cosa molto importante per la vita di un ricercatore, e ne parlava anche Angelo Dalle Molle, non devi passare il tempo a compilare moduli, a fare grant e cose del genere, quindi fai ricerca. E non devi perdere tempo con queste comunque idiozie che abbiamo costruito nel sistema della ricerca, va bene? Quindi c'è questo elemento. E quindi io parto da questo scetticismo completo, che poi applico anche ai personaggi epici di questa vicenda, perché per esempio Jensen Huang, il fondatore di Nvidia, effettivamente è una storia epica, una storia che incarna il sogno americano, cioè arriva dall'Asia, nato a Taiwan, una persona che ha 9 anni e non ha un dollaro in tasca, quindi pulisce i bagni, pulisce i pavimenti dei posti dove gioca a ping pong, lavora in fast food mentre viene bullizzato, e poi si paga gli studi, si iscrive all'università a 16 anni, si laurea in ingegneria elettronica, fa l'ingegnere elettronico, quindi conosce la materia su cui lavora, fonda un'azienda nel 1993, poi quell'azienda fa tutto un percorso e a un certo punto diventa l'azienda più grossa del mondo. Cioè, non si può dire che è la storia di un privilegiato. Infatti questa persona dice: io sono il sogno americano, quando si descrive. Però questa persona cosa vuole fare? Vuole che la sua azienda faccia sempre più profitti, e quindi è disposto a tutto affinché questo avvenga. Se lo studiate, lo capite, che è sempre alla ricerca di un mercato, amplifica quanto è grande questo mercato perché così arrivano più soldi. In ogni caso, anche se la storia ti ispira per il luogo da cui è venuto, poi sta dentro questo sistema. Quindi io penso che in sostanza in questo sistema ci sono delle cose da considerare. Da un lato, il fatto che ci siano, cioè se ci sono le aziende solo di alcuni posti del mondo, è più un problema, naturalmente, perché tu hai delle grosse concentrazioni. Quindi, quando noi diciamo l'Europa, che cosa può fare? Beh, l'Europa dovrebbe avere delle aziende che stanno dentro queste filiere, altrimenti è difficile che abbia una voce dentro. Ma perché mai ci limitiamo a fare leggi? Ma perché mai, diciamo, un'azienda di un altro luogo dovrebbe fare quello che gli dici tu? Soprattutto in un mondo molto più competitivo, dove poi gli aspetti economici, come abbiamo visto, si intrecciano moltissimo con quelli politici. L'altro aspetto è che comunque le stesse aziende possono vedere l'importanza di fare delle scommesse di lungo termine. Anche in questo, per esempio, la storia di Nvidia è importante, perché lo scopo di questa azienda era fare profitti. Però è anche vero che questa azienda, all'inizio degli anni 2000, sostanzialmente accantona delle risorse, quindi dice: io faccio dei profitti in meno, viene punita in borsa. Quindi in borsa vale poco a quel punto, crolla in borsa, ma crolla in borsa perché sta investendo in ricerca e sviluppo, e quindi sta cercando di aprire delle altre linee, di attirare degli importanti ricercatori e professori universitari, per esempio Bill Dalley, che è uno dei protagonisti scientifici di questa vicenda, era un signore che faceva il preside di informatica dell'Università di Stanford. A un certo punto va a fare il capo della scienza di Nvidia nel 2009, che era ancora un'azienda che si occupava principalmente del mercato dei videogiochi, delle schede grafiche per i videogiochi. Quindi l'azienda fa uno sforzo immane per poi arrivare a questi. Quindi le grandi scommesse di lungo termine, per esempio le grandi scommesse di lungo termine che bisogna fare per considerare magari dei mercati di riferimento che nell'immediato sono un po' meno soldi rispetto a che io apro Instagram e mi viene, non so, le scarpe da corsa che mi piacciono, e quindi cliccare su quelle scarpe, oppure guardare una ricetta e comprare l'olio extravergine d'oliva per farla. Anche quella è tecnologia, ricerca, eccetera, però c'è pure la tecnologia in cui l'iterazione e lo studio di alcuni pattern ti porta al miglioramento di alcuni processi delle biotecnologie o della farmaceutica. Quindi esiste anche una tendenza, cioè è possibile una tendenza a fare delle scommesse di lungo termine che poi hanno degli impatti significativi su alcuni aspetti del benessere delle persone. Però io tutto questo lo dico sempre premettendo quegli aspetti di scetticismo che ho detto all'inizio. Allora, parlando di benessere, io ti faccio un'ultima domanda prima di avere un pochino di tempo magari per qualche domanda del pubblico. Volentieri. E la domanda nasce dall'attualità, te l'ho un po' anche anticipata sui social stamattina, perché ci sono alcuni osservatori come per esempio Francesco Maria De Collibus, di cui hai scritto di recente una introduzione del suo ultimo libro, La macchina che si autoprogramma, oppure anche un articolo di un giornalista di Wired, Andrea Daniele Signorelli, che cominciano, diciamo così, a sollevare il problema di una, diciamo, di dare centralità nel discorso dominante sull'IA. Sembra quasi che l'unica domanda centrale sia quella di quando raggiungeremo questa famosa singolarità, il momento in cui ci sarà una superintelligenza artificiale che deciderà il posto nostro. E qui è interessante Signorelli che cita una frase di Andrew Ng: preoccuparsi della superintelligenza artificiale è un po' come porsi il problema del sovrappopolamento di Marte prima ancora di averci messo piede, no? Come per dire, è un problema che non si pone perché stiamo risolvendo problemi molto molto propedeutici, e anzi forse, dice Signorelli, siamo di fronte quasi a una forma di distrazione di massa che serve per sollevare in realtà hype, perché se tu stai dicendo che stai creando una sorta di dio artificiale, è evidente che questo trascina con sé un meccanismo di investimenti anche un po' ciechi, no? Come se si stesse andando verso una bolla. Cioè, in sostanza, dover sollevare anche a livello mediatico continuamente questo tema del rischio esistenziale, il famoso momento Skynet, in realtà sarebbe funzionale proprio a tutti questi hyperscaler che hanno bisogno di immensi investimenti, di sostenere gli immensi costi di questa tecnologia, il che ci allontana dai problemi veri che invece riguardano, per esempio, i bias, riguardano il lavoro, riguardano questioni molto più pratiche di questi decenni che ci aspettano. Tu come inquadri questo problema, Alessandro? Ma allora, anzitutto questi concetti, intelligenza artificiale generale, superintelligenza, singolarità, hanno comunque una storia, cioè sono dei concetti che si possono vedere nella storia delle idee, come sono stati, e in particolare dell'intelligenza artificiale generale, attraverso Shane Legge e anche l'Istituto Dallemolle, parlo nel libro, quindi vi rimando a quello. Il punto qual è? Allora, nel momento in cui tu vedi l'intelligenza artificiale come filiera industriale, quindi attraverso la centralità di Nvidia, vedi che questo è in contraddizione con la superintelligenza. Vi spiego per quale ragione. Cioè, una ipotetica superintelligenza, diciamo, sa fare il compito di qualunque azienda. Quindi non serve più il vantaggio tecnologico che queste aziende complessissime dell'elettronica hanno sviluppato. Quindi noi viviamo tuttora nel mondo in cui, se tu vuoi fare la macchina di un'azienda olandese, ASML, che è grande quanto metà di questa sala e costa 200 milioni di euro, quindi non è che apri ChatGPT nella versione più avanzata e gli dici fammi quella macchina, non si può fare, capite? Nessuno al mondo può raggiungere questa cosa, come nessuno al mondo può produrre come si producono i semiconduttori avanzati, nessuno al mondo può fare l'assemblaggio elettronico che fa Foxconn. Quindi il mondo in cui viviamo è pieno di specifici vantaggi tecnologici, tra cui c'è anche quello di Nvidia, che ha costruito la sua filiera, la sua architettura, l'integrazione tra software e hardware. Quindi io, ovviamente, tutto è possibile, cioè pure che arrivi la superintelligenza, però sostanzialmente vi assicuro che queste aziende non ci credono. Cioè le aziende leader dei vantaggi dell'infrastruttura non credono che arriverà alcuna superintelligenza. Quello che credono è che se voi sentite per esempio Foxconn, che è il più importante assemblatore di elettronica del mondo, quindi è l'azienda grazie alla quale è esistito l'iPhone, è l'azienda che fa i server che devono andare nei data center dell'intelligenza artificiale, insomma è un'azienda importante del nostro pianeta, quindi loro si sono già interrogati su questo, hanno dei processi all'interno della loro manifattura che si fanno in modo assistito con l'intelligenza artificiale, hanno un certo uso della robotica, pensano questo uso può andare dal 5% al 15% a seconda di come migliorano, cioè c'è un discorso insomma abbastanza serio come è il funzionamento di un'azienda. E il se a questo però si è, sono aggiunti degli altri elementi, quindi ci sono delle altre aziende che devono conquistare dei mercati, quindi degli utenti. Questo è il caso di OpenAI, perché quello che è successo dal 2022 è che un'azienda venuta, diciamo, quasi dal niente rispetto a quel momento è diventato uno dei siti internet più visitati al mondo. Quindi c'è una base di utenti molto significativa, le persone che scaricano dall'App Store i prodotti, li utilizzano, insomma, a prescindere da poi quello che ci fanno, quindi c'è un mercato in cui ti posizioni. Ci sono anche delle altre aziende, per esempio c'è Anthropic, un'azienda di fuoriusciti di OpenAI finanziata da Amazon e da Google, anche loro ti dicono la superintelligenza, proprio c'è il capo di Anthropic che si chiama Dario Amodei e di non è nato in Italia, ma comunque è nipote di degli immigrati dall'Italia, con sua sorella Daniela hanno fatto questa azienda, quindi lui scrive i manifesti sulla superintelligenza, come sarà il mondo quando avremo 100 Einstein in un data center che rispondono alle loro domande, e poi vi andate a vedere com'è che funziona Anthropic. Anthropic è diventata negli ultimi 6 mesi un'azienda molto più interessante perché ha applicato l'intelligenza artificiale al coding, alla programmazione, e quindi ha trovato un aspetto specifico, un'attività importante, molto ben retribuita, ma anche con degli elementi ripetitivi in cui le loro soluzioni di intelligenza artificiale sono riuscite ad avere dei grandi risultati. Quindi loro non c'è Einstein in un data center, c'è un'applicazione che ti aiuta a programmare e che avrà anche delle conseguenze nel lavoro, perché in questo modo il programmatore diventa un orchestratore di agenti di intelligenza artificiale che programmano, quindi non è che sparisce, però chiaramente te ne servono di meno di programmatori umani rispetto a quello. Quindi sostanzialmente per le nostre vite non c'è la superintelligenza in questo momento, ci sono questi concreti effetti, più degli altri concreti effetti che riguardano le infrastrutture, per esempio, quindi il fatto che adesso l'intelligenza artificiale è questo ciclo dei data center, quindi ci sono dei posti del pianeta ormai letteralmente pieni di data center per questa ragione, visto che se ne costruiscono, si fanno investimenti per centinaia di miliardi di data center. Quindi questa è una questione, ovviamente gli usi militari dell'intelligenza artificiale, ma come di ogni tecnologia elettronica, sono delle altre questioni importanti. Il discorso sulla superintelligenza per me è molto legata a delle dinamiche cultuali, capite, di culti, cioè che insomma ognuno naturalmente è libero di crederci, ma c'è chi crede in Scientology, cioè chi crede nella superintelligenza, cioè è un'altra forma di, è una forma religiosa sostanzialmente, perché le persone hanno questa una naturale inclinazione a dover credere in qualcosa, e in questo caso addirittura di credere in un Dio, quindi qualcosa che tu riconosci come un Dio perché ti è superiore, ma addirittura un Dio che crei tu stesso. Quindi è come se fosse l'intersezione di due forze religiose, la capacità, diciamo, faustiana dell'uomo di creare un altro uomo, di creare se stesso, ma poi quell'uomo non è un uomo, è superiore a un uomo, e quindi tu stai effettivamente creando un Dio. E quindi si sono accumulati tanti elementi psicologici, ma anche di noia, da parte di degli esseri umani, come tanti dei ricercatori dell'intelligenza artificiale, che sono questo un nugolo di poche migliaia di persone. Quelli che lavorano per l'infrastruttura sono molti di più, sono milioni di persone, ci sono operai, tecnici, ingegneri, però in questo caso stiamo parlando di un po' di programmatori e di ingegneri informatici che prima, per la loro disciplina, 15 anni fa, venivano pagati come delle persone, quasi dei ricercatori normali, e poi hanno cominciato ad essere pagati 20 volte tanto, 40 volte tanto, e quindi la gente un po' sbarella, non capisce che diciamo nella vita bisogna anche avere, no, un po' di equilibrio, dire guardare la natura e dire questo, non so, questa pianta di elicriso ci sarà anche quando non ci sarò più io, e insomma, il mare continua ad esistere, quindi devi avere un tuo equilibrio rispetto alla, anche alla tua capacità di essere valutato su un metro del denaro, su questi altri elementi. Quindi tutte queste cose hanno costituito questo aspetto, ma c'è stata anche un'oscillazione, secondo me, perché a volte nel dibattito dell'intelligenza artificiale si parla tanto di superintelligenza, insomma ora si parla principalmente della bolla dell'intelligenza artificiale, quindi non della superintelligenza, ma del fatto che cioè, tutti sono curiosi di sapere se e quando arriverà questo momento in cui i valori finanziari così elevati di queste aziende, quindi non c'è solo Nvidia che vale 5.000 miliardi o 4.500, ma non so chi di voi conosce Broadcom. Ok, nessuno di voi conosce Broadcom, però vi annuncio che Broadcom è un'azienda che da sola vale di più dell'intera borsa italiana. Quindi se voi sommate Eni, Enel, Unicredit, Intesa San Paolo, Leonardo e così via, vi viene fuori un valore inferiore a quello di Broadcom. Quindi capite, questi valori sono elevati, anche se Broadcom fa dei prodotti, per cui poi ogni anno presenta, ogni trimestre presenta dei ricavi, dei profitti e così via. Però è possibile che il valore sia molto elevato lo stesso, sostanzialmente. Va bene, abbiamo fatto le 18:34 e poi abbiamo altre presentazioni, non possiamo sforare più di tanto, ma volevo lasciare... Abbiamo 5 minuti, ce l'abbiamo. 5 minuti minimo per qualche domanda. Prego. Passo il microfono perché così viene anche registrato. Grazie. Dunque, a me interesserebbe sapere da lei, perché il titolo del libro ha a che fare con geopolitica e intelligenza artificiale. Fino adesso si è parlato, diciamo, dell'aspetto economico, cioè come se gli stati fossero degli osservatori di queste dinamiche in cui delle aziende inseguono i profitti e in un certo senso si va in ordine sparso. Però mi interessa questo aspetto. Considerando le ricadute dell'intelligenza artificiale sui, ad esempio, sugli apparati militari, sulle capacità militari di uno Stato, qual è la relazione tra, ha capito cosa intendo, cioè investire per uno Stato, parlo soprattutto degli imperi, insomma, quello cinese, americano, non degli Stati chiaramente poco influenti, l'intelligenza artificiale non è soltanto, appunto, osservo le dinamiche delle aziende nel mercato, ma... quel tipo di conoscenza, di tecnologia, ha un effetto sulla mia capacità militare, e quindi questo aspetto mi interessa, cioè la relazione tra lo sviluppo... Chiarissimo, okay. Sì, è chiarissimo. Allora, da un lato l'economia, da un lato la geopolitica e la geografia del talento, quindi quanto, siccome le persone sono le persone che alimentano questo aspetto, la capacità di un paese si determina sulla presenza di talenti, di imprese, di capitali. Capisci? La capacità di un paese. Quindi se tu diciamo sei in grado di formare, non so, 6 milioni di ingegneri oppure 1.000, questo fa la differenza. Oppure se tu sei l'Arabia Saudita e quindi investi 60 miliardi, tu puoi investire 60 miliardi, questo fa la differenza da questo punto di vista. Poi l'economia stessa è geopolitica. Per quale ragione? Perché le le capacità tecnologiche costituiscono in alcuni casi quelli che in geopolitica si chiamano i choke points, quindi gli stretti, cioè i posti dove tu devi passare per forza. Per esempio, se devi portare una merce da un porto a un altro, devi passare per forza da qualche parte, tipo il canale di Suez, o se no devi andare nel canale di, nel Capo di Buona Speranza. E quindi è volontà di alcuni stati costruirsi questi choke points, per esempio i choke points dell'industria dei semiconduttori. Quindi quello che è accaduto è che da questo punto di vista la competizione dell'intelligenza artificiale di nuovo è figlia della stessa competizione dell'industria dei semiconduttori, perché è fatta, l'industria dei semiconduttori è fatta che c'è i macchinari, la progettazione, la produzione, quindi lo scopo cinese è che deve avere la, tutta la sua filiera chiusa, perché così non può più essere ricattata nella sua produzione da un altro paese. Oppure a te servono dei materiali per fare dei sistemi, quindi lì in quel caso la strategia cinese è, come abbiamo visto, mantenere la raffinazione di alcuni materiali, perché così a un certo punto può dire io queste cose non te le do. Quindi la geopolitica di questo aspetto dell'economia è capire che noi viviamo in un contesto in cui le aziende hanno un ruolo politico, in particolare le aziende che producono delle cose, perché continuano ad esistere delle cose e non solo dei programmi e dei software che sono più facilmente replicabili. Invece le cose non sono replicabili. Per questo Nvidia vuole vendere i suoi chip sull'intelligenza artificiale alla Cina, ma praticamente da 4 anni esiste questo tira e molla col governo degli Stati Uniti, che gli dicono tu non puoi vendere questa cosa. Poi loro dicono no, ma se io non lo vendo, allora questa tecnologia americana non viene adottata da un grande mercato che si fa la sua tecnologia. Altra cosa che è vera, perché oltre il mondo, oltre ad essere competitivo, è anche interdipendente. Quindi per far avanzare la stessa tecnologia americana sostanzialmente ti servono gli sviluppatori cinesi. Se tu dici io non voglio gli sviluppatori cinesi, la tua tecnologia avanza meno in fretta. Poi l'altro aspetto geopolitico, e chiudo qui ma ce ne sarebbero altri, riguarda i modi con cui i paesi declinano i loro vari usi industriali della tecnologia, e quindi tra gli usi industriali c'è anche l'uso degli apparati di sicurezza. Quindi quello che è accaduto, per esempio già quando aveva scritto il libro, è che quando OpenAI ha ristrutturato il suo consiglio d'amministrazione è entrato l'ex capo della NSA, una delle più importanti agenzie di intelligence degli Stati Uniti. E poi ora tutte queste aziende, seguendo una tesi che è stata di Palantir, che è un'altra delle aziende che vengono raccontate nel libro, forniscono dei servizi per l'utente governativo, che vuol dire sempre i servizi di difesa e di sicurezza per questi paesi. Quindi dal punto di vista geopolitico sta anche avvenendo, diciamo, una divisione sempre più netta tra i vari campi del pianeta, in cui naturalmente queste aziende non possono dare servizi di questo genere né a quelli che sono considerati gli avversari, né poi a volte a paesi delle zone grigie. Quindi oltre agli imperi e alle principali potenze ci sono anche i paesi che stanno in alcune zone grigie, per esempio gli Emirati Arabi Uniti, che hanno dei rapporti con gli uni o con gli altri, e che quindi giostrano il loro ruolo in termini di reciproca convenienza. Io vorrei chiedere una domanda molto più semplice. Queste grandi aziende, il mondo etico e il mondo sociale, come lo considerano? Perché queste macchine, queste intelligenze sono super potenti. Quindi ci sarà, con la diffusione a livello industriale e applicativo anche, di una riduzione di personale. E poi, per creare questi super computer, eccetera, il materiale, le materie prime, dove vanno prese? E quindi c'è un impoverimento della società, c'è un profitto notevole, che però è in mano di pochi. Quindi dove ci stiamo indirizzando? Verso un controllo delle nazioni, perché aveva ragione il Signore, la maggior parte di questa potenza è applicata per scopi militari. E se il controllo di queste potenze, diciamo, arriva anche in un altro stato e riesce a controllare anche un altro stato, dove ci stiamo dirigendo? Allora, la maggior parte di questa attività non è applicata per scopi militari. Non è così. È perché il mercato militare è un mercato piccolo. Quindi la guerra, peraltro, la guerra non è solo la guerra dell'intelligenza artificiale, come ci mostrano le guerre del nostro tempo. Purtroppo la guerra è, sì, è guerra dei droni sempre di più ed è terribile naturalmente, ma è guerra di esseri umani che prendono delle munizioni, letteralmente munizioni del cavolo, e se le sparano l'uno con l'altro. Quindi la guerra è anche questa. In termini di mercato non è possibile che il mercato delle armi, naturalmente nessuno di noi può saperne di alcuni elementi, di elementi delle società quotate, sì, esattamente quanto sia, ma per esempio per l'industria dell'elettronica avanzata il mercato, la parte bellica è l'1%. Il suo smartphone, cioè il mondo degli smartphone, è circa 30 volte rispetto alla parte bellica. Diciamo, questo è dal punto di vista del valore economico. Poi certo, l'aspetto militare è importante e fa parte di un'evoluzione di questo genere. Ma l'altra parte della sua domanda poi è quella importante. Che, allora, da un lato esistono i luoghi dove ci sono, c'è una differenza tra i luoghi del mondo dove ci sono queste aziende e i luoghi del mondo dove non ci sono queste aziende. Qual è il destino dei luoghi del mondo dove non ci sono queste aziende? Di essere colonizzati dai luoghi del mondo dove ci sono queste aziende. Diciamo, non c'è un'altra opzione, capisci? Quindi ci sono, diciamo, dei paesi che per le loro ragioni rispetto al sistema degli Stati Uniti a un certo punto si sono fatti le loro aziende. Qualcuno tipo la Cina sostanzialmente ci è riuscito, qualcuno tipo la Russia non è che ci sia riuscito esattamente, e qualcun altro tipo la Corea del Sud è diventato importante lo stesso, pur essendo una democrazia, insomma, un po' particolare, avendo le sue caratteristiche, però la Corea del Sud è dentro questo mondo, quindi ci sono Samsung, SK, Hynix, altre aziende. Invece degli altri posti del mondo, per varie ragioni, come gli europei, si ritrovano in una posizione costantemente peggiore. E senza questi tre elementi, diciamo, dove ci troviamo noi, no? Mantenere i talenti che formiamo e attrarne di altri da fuori, far crescere delle aziende tecnologiche e investire dei capitali, è impossibile non ritrovarsi in una posizione subordinata. Poi, per i miei valori, per esempio, io una cosa che trovo sbagliata, secondo i miei valori, del sistema degli Stati Uniti, è che 15 anni fa negli Stati Uniti, per una decisione della Corte Suprema, è stato consentito a chiunque ha soldi di finanziare la politica illimitatamente. Quindi noi comunque viviamo da 15 anni in un contesto in cui nel paese leader di diverse di queste cose, perché di altre sono leader ormai i cinesi, comunque il sistema funziona, cioè funziona costituzionalmente di fatto, perché l'interpretazione che ha dato la Corte Suprema è che se arriva uno e ha 30 milioni li dà a un senatore, in quel caso J.D. Vance, che poi diventa il vicepresidente degli Stati Uniti. E poi dopo c'è la campagna elettorale e qualcun altro prende 200 milioni e li dà a qualcun... Quindi io non penso che la democrazia possa funzionare bene quando c'è questo aspetto. L'America c'ha un'altra visione e dice... praticamente loro pensano i pesi e i contrappesi della democrazia ormai non sono i vari poteri, ma è che non c'è una sola di queste aziende tecnologiche, ma sono tanti, insomma, oligarchi che si fanno la guerra, cosa che poi è vero, perché nello spazio c'è Elon Musk, ma c'è anche Bezos, nell'intelligenza artificiale ci sono OpenAI, Anthropic, le aziende di Musk, nel cloud sono tre, ed è tutto così, però a me non va bene lo stesso, però io devo anche dirvi che non cambierò niente dicendo che non mi va bene, ma l'unica questione è di entrare nei rapporti di forza di questa dinamica e quindi intervenire sulla parte dei talenti, delle imprese e dei capitali. Non può accadere nient'altro, in sostanza. Prego. Va bene, io non lo so, chiedo a Lumi se ancora abbiamo tempo per una sola domanda, però. Una sola. Allora, la diamo al signore, al signore subito, così. Che ha alzato la mano per primo. Mi scuso per gli altri. Buonasera. Allora, l'analisi di stasera mi ha ricordato un libro che lessi tanti anni fa. Era un libro di Stiglitz e si intitolava La globalizzazione e i suoi oppositori. Tesi di fondo di questo libro era che stati ultraliberisti, come ad esempio gli Stati Uniti, in realtà facevano un uso strumentale della globalizzazione, perché con tutta una serie di sistemi, di dazi, di protezione, eccetera, assicuravano, diciamo così, un tipo di economia sociale del mercato, da un lato, poi a livello strategico e funzionale, iperliberismo nei settori che ritenevano più strategici e su cui nei quali erano più competitivi. Perché ho riportato questa citazione del libro? Perché è emerso secondo me questo quadro, poi magari forse ho capito male. Allora, abbiamo da un lato una sorta di rincorrere da parte degli stati imprese, un'economia abbastanza veloce, abbastanza rapida, abbastanza fluida, per cui gli stati cercano, diciamo così, per usare un termine molto di moda, di stare sul pezzo, ok? Con una piccola differenza a livello geopolitico, che per ovvie ragioni la Cina ha la capacità di intervenire in maniera più diretta e massiccia, e quindi di creare un modello di tipo, chiamiamolo così, autarchico, ok? Quindi una filiera che nasce dentro la Cina e si conclude dentro la Cina, mentre gli Stati Uniti in qualche modo invece non hanno questi strumenti e quindi devono in qualche modo barcamenarsi in maniera un più indiretta, con giochi di sponde, con pressioni, e chiaramente poi abbiamo anche un peso che è quello militare, che è quello geopolitico, che viene dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi, in cui però a un certo punto c'è questa novità: un asse sempre più profondo, interconnesso fra Russia e Cina. A questo punto la Russia, che ha dal punto di vista tecnologico non ha le stesse competenze cinesi, ma ha tante materie prime, e invece l'apporto, lo scambio di know-how da parte della Cina, di prodotti da parte della Cina, quanto potrà incidere sullo scacchiere geopolitico nei prossimi 10-15 anni? Allora, apprezzo la citazione di Stiglitz, effettivamente anche per gli Stati Uniti, per esempio lo stesso presidente Reagan aveva utilizzato i dazi sui semiconduttori verso il Giappone, è una cosa che spesso si dimentica, cioè Reagan ovviamente ha abbassato le tasse, però quando si trattava di una materia veramente strategica ha usato i dazi in modo estremamente pesante, delle grosse politiche di protezione. Ora, il paradosso della Cina, questo ne parlo anche nel mio nuovo libro La Cina ha vinto, è che la Cina, da un lato la sua forza è stata integrarsi in un mercato globale. Vi ricordate, l'Unione Sovietica non era integrata in un mercato globale, esisteva un mercato che stava diventando globale, ma quello era degli Stati Uniti e del loro mondo, non del mondo che faceva capo all'Unione Sovietica. Invece la Cina sta dentro questo mercato perché è la più grande potenza manifatturiera al mondo. Quindi nel 2001, quando la Cina è entrata nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, il suo valore aggiunto manifatturiero era a metà di quello degli Stati Uniti. Nel 2023 è diventato il doppio di quello degli Stati Uniti, e questo valore aggiunto manifatturiero viene sia usato all'interno sia esportato. Alcuni dei successi cinesi, come l'industria automobilistica, della mobilità elettrica, mostrano questo fatto. Il mercato automobilistico cinese è diventato il più grande mercato al mondo già nel 2009, ma i tedeschi pensavano che i cinesi avrebbero comprato le auto tedesche perché erano razzisti e pensavano che i cinesi non fossero in grado di farsi le loro automobili. Invece non era vero, perché i cinesi sono andati a studiare in Germania e da altre parti, a un certo punto hanno fatto le loro automobili. Ora la Cina ha anche però un'altra cosa che deve affrontare, perché le automobili cinesi non basta il mercato interno per le automobili cinesi, ma vanno vendute anche all'estero. Quindi la tendenza della Cina, che è quella che comanda da questo punto di vista, sarà sempre quella di trovare dei mercati di interconnessione, quindi alimentarsi attraverso le materie prime dalla Russia, dall'Iran e da altri paesi, oltre che dai paesi del sud-est asiatico e dall'Africa. Quindi io penso che la Russia è una parte di questo elemento della Cina, ma non va sopravvalutata, perché il peso economico della Russia è, diciamo, economico-tecnologico, rispetto invece al peso militare, che è importante, ma è comunque determinato anche dall'avanzamento tecnologico che non c'è stato, è messo dalla Cina assieme a queste altre geografie con cui vuole avere dei rapporti. Quella più importante è sempre il sud-est asiatico, perché sono 800 milioni di persone, 300 milioni in Indonesia, poi c'è Vietnam, la Thailandia, la Malesia, sono paesi molto importanti anche per le materie prime in alcuni casi, e sono vicini. Quindi si possono fare delle filiere di investimento comuni. Poi ci sono i rapporti con la Russia, i rapporti con le monarchie del Golfo, con il Sud America, su cui avverrà il maggiore scontro con gli Stati Uniti, come stiamo vedendo già adesso, perché agli Stati Uniti non va bene che nel loro cortile di casa ci siano tanti paesi che hanno ormai la Cina come primo partner commerciale. Quindi gli Stati Uniti non saranno fermi rispetto a questa cosa. E poi l'Africa, invece, su cui gli Stati Uniti faranno solo chiacchiere e non interverranno mai, cioè non porteranno mai sviluppo, come non hanno mai fatto in questi decenni, ma dove la sfida della Cina sarà con i paesi del Golfo e con la Turchia, sempre più dei grandi protagonisti della partita africana, che sicuramente influenzerà anche i prossimi decenni. Però ora mi taccio. Ci fermiamo per tutte le altre domande. C'è il libro là che potete procurarvi, che ho dimenticato di dirlo, ha vinto anche il premio saggistica Città delle Rose ed è arrivato anche nella cinquina dello Strega nel concorso di saggistica. Insomma, è un libro che vale la pena assolutamente. Noi ringraziamo Alessandro Aresu e cediamo il microfono alla prossima presentazione. Grazie.